La consacrazione, momento culminante della messa. Ci soffermiamo ora sul momento cruciale del santo sacrificio, la consacrazione. Come afferma il Catechismo della Chiesa Cattolica, l'efficacia delle parole e dell'azione di Cristo e la potenza dello Spirito Santo rendono sacramentalmente presenti, sotto le specie del pane e del vino, il suo corpo e il suo sangue, il suo sacrificio offerto sulla croce una volta per tutte. Cristo stesso, servendosi della voce, della volontà, della persona del sacerdote, pronuncia le stesse parole che disse durante l'ultima cena. Parole nate dal suo immenso amore, come ha manifestato chiaramente in quei momenti sublimi, prima di istituire l'Eucaristia e il sacerdozio. Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi prima della mia passione. Luca 22,15. Desiderio, desideravi. Questa affermazione del Signore implica un ricchissimo contenuto che il linguaggio umano non riesce a esprimere. Nasconde l'amore infinito della Santissima Trinità per la creatura umana e racchiude il compimento perfetto della propria missione da parte del Figlio prediletto inviato dal Padre per redimerci. Tali parole erano la rivelazione dell'azione salvatrice di Cristo sul punto di realizzarsi sulla croce. Anticipavano sacramentalmente quel momento che si sarebbe compiuto cruentemente poche ore dopo. Quel momento, reso presente in modo non cruento da ogni messa, in cui la Santissima Trinità riceve adorazione, rendimento di grazie, impetrazione ed espiazione da parte dell'intera umanità mediante Gesù, perfectus Deus, perfectus Homo, perfetto Dio e perfetto uomo. Va ammirata la strettissima relazione esistente tra l'incarnazione e la passione e morte di Gesù. A Nazareth si rivela l'onnipotenza di Dio che decide di abbassarsi e di prendere liberamente per amor nostro la natura umana. Sul Golgota si tocca con mano nuovamente questa stessa onnipotenza umile che non disdegna di farsi carico del triste fardello delle nostre miserie. Oltre a constatare che soltanto il potere infinito di Dio è capace di compiere simili meraviglie, sorprende la schietta semplicità, pervasa d'amore, con la quale questi miracoli prodigiosi sono narrati. Vengono scambiate poche parole tra il cielo e Maria quando giunge la pienezza dei tempi. Luca 1,28-38. Così come poche sono le parole pronunciate da Gesù. Questo è il mio corpo, questo è il calice del mio sangue, quando istituisce l'Eucaristia o ancora quando conclude il sacrificio della croce. È compiuto. Giovanni 19,30. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Luca 23,46. Grandi misteri, narrati con la luminosa semplicità dell'essere divino, nel quale nulla può esserci di confuso. Tale schiettezza, immensamente ricca, ci invita ad approfondire sempre meglio le parole consacratorie espresse dal Signore mediante la voce e la volontà del sacerdote. Uniamoci con la maggior devozione possibile a queste parole di Cristo che si realizzano in ogni messa. Le dice a tutti, a ciascuna e a ciascuno di noi. Questo momento principale e molto solenne della consacrazione ci riporta in mente la promessa che mai ci avrebbe lasciato orfani. Giovanni 14,18. Gesù sarà sempre con noi, donandosi a noi come alimento della nostra anima per la serenità e la pace della nostra vita. Rendiamo grazie al Signore per questo modo così vero di venire e di rimanere in mezzo a noi. Che inusitata profondità racchiudono le parole: questo è il mio corpo, questo è il calice del mio sangue. Ci riempiono di sicurezza, rinforzano la nostra fede, rendono salda la nostra speranza e ricca la nostra carità. Sì, Cristo vive. Egli è lo stesso di 2000 anni fa. Vivrà sempre, intervenendo nel nostro cammino, Ancora una volta si avvicina a noi come un viandante, come sulla strada di Emmaus, per sostenerci e aiutarci in tutte le nostre attività. La transustanziazione, il miracolo delle parole di Cristo. La presenza reale di Gesù è conseguenza del mistero ineffabile che si compie nella transustanziazione, dinanzi alla quale l'unico atteggiamento adeguato è l'orazione dell'onnipotenza e dell'amore di Dio. Per questo ci inginocchiamo durante questo istante sublime che costituisce il nucleo della celebrazione eucaristica. In quei momenti il sacerdote è strumento del Signore, agisce in persona Christi. Giovanni Paolo II ricordò in varie occasioni che tale espressione teologica vuol dire di più che a nome, oppure nelle veci di Cristo. In persona, cioè nella specifica sacramentale identificazione col sommo ed eterno sacerdote, che è l'autore e il principale soggetto di questo suo proprio sacrificio, nel quale, in verità, non può essere sostituito da nessuno. Questa affermazione del Papa, rivolta specificamente ai sacerdoti, dovrebbe illuminare la nostra esistenza, spingendoci a cercare Dio in tutti i momenti della giornata, nelle conversazioni, nel portamento, nella costante disponibilità per servire, nel sorriso e nell'ottimismo, nelle contrarietà e via dicendo. In ogni cosa, non soltanto sull'altare o nel confessionale, si deve percepire il bonus odor Christi, seconda ai Corinzi 2,15, il profumo di Cristo. Tutti i fedeli possono chiedersi con quale attenzione, devozione e delicatezza vivono la transustanziazione, con quale fede assistono a questo ineffabile prodigio. Tutti possiamo considerare se cresce la nostra gratitudine per una così mirabile visita di Dio alle creature. Non abituiamoci mai ad assistere a questo miracolo, il più grande che si realizzi quotidianamente su tutta la terra. Quando il celebrante rende attuale ciò che accadde 2000 anni fa nel Cenacolo di Gerusalemme, la sera del Giovedì Santo, fa uso dei termini utilizzati da Cristo parlando in prima persona. Non è un uomo colui che si rivolge a Dio Padre in rappresentanza degli altri fedeli, ma lo stesso sommo ed eterno sacerdote. Non è l'uomo a trasformare le cose offerte nel corpo e nel sangue di Cristo, ma lo stesso Cristo che per noi fu crocifisso. Il sacerdote, figura di Cristo, pronuncia quelle parole, ma la virtù e la potenza che ne deriva vengono da Dio. Commentando la preghiera con la quale il canone romano introduce la consacrazione, Benedetto XVI afferma: come prima cosa ci colpirà che il racconto dell'istituzione non è una frase autonoma, ma comincia con un pronome relativo, qui pridie. Questo qui aggancia l'intero racconto alla precedente parola della preghiera, diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Non è affatto semplicemente un racconto qui inserito, e non si tratta neppure di parole autoritative a sé stanti che magari interromperebbero la preghiera. È preghiera. E soltanto nella preghiera si realizza l'atto sacerdotale della consacrazione che diventa trasformazione, transustanziazione dei nostri doni di pane e vino in corpo e sangue di Cristo. Pregando in questo momento centrale, la Chiesa è in totale accordo con l'avvenimento nel Cenacolo, poiché l'agire di Gesù viene descritto con le parole «Gratias agens benedixit», rese grazie con la preghiera di benedizione. Il Signore ringrazia e con ciò restituisce a Dio il pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, per riceverlo nuovamente da Lui. Ringraziare diventa benedire. Ciò che è stato dato nelle mani di Dio ritorna da Lui benedetto e trasformato. La liturgia romana ha ragione quindi nell'interpretare il nostro pregare in questo momento sacro mediante le parole offriamo, supplichiamo, chiediamo di accettare, di benedire queste offerte. Tutto questo si nasconde nella parola Eucaristia. Se tutti devono sforzarsi con l'aiuto di Dio per non abituarsi a questo ineffabile prodigio, quanto più dobbiamo farlo noi, ministri sacri? Nonostante la nostra indegnità personale e le nostre debolezze, durante la consacrazione siamo ipse Christus. Incorporati al sommo ed eterno sacerdote, diveniamo suoi strumenti per rendere presente e applicare l'opera della redenzione. Riempiamoci in ogni messa di stupore riconoscente e adorante. Ci aiutano le parole e le rubriche, in modo particolarmente chiaro nella preghiera eucaristica prima, quando invitano il sacerdote a ripetere gli stessi gesti di Cristo nell'ultima cena. Gesù prese il pane nelle sue mani sante e venerabili e, alzando gli occhi al cielo, a te, Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Come spiega il Papa, la Chiesa orante guarda alle mani e agli occhi del Signore. Vuole quasi osservarlo, vuole percepire il gesto del suo pregare e del suo agire in quell'ora singolare, incontrare la figura di Gesù, per così dire, anche attraverso i sensi. Guardiamo le mani di Cristo con le quali benediva gli uomini durante il suo itinerario terreno e operava numerosissimi miracoli. Guardiamo queste mani trafitte sulla croce a causa dei nostri peccati. Contempliamo i suoi occhi che si levavano al cielo mentre pregava, come segno esterno della sua costante unione con Dio Padre. Preghiamo in quest'ora il Signore che le nostre mani servano sempre di più a portare la salvezza, a portare la benedizione, a rendere presente la sua bontà. Preghiamo che attraverso gli occhi non entri in noi il male, falsificando e sporcando così il nostro essere. Ma vogliamo pregare soprattutto per avere occhi che vedano tutto ciò che è vero, luminoso e buono, affinché diventiamo capaci di vedere la presenza di Dio nel mondo. Meditiamo queste considerazioni del Santo Padre rivolte ai sacerdoti. Lasciatevi attirare sempre di nuovo nella Santa Eucaristia, nella comunione di vita con Cristo. Considerate come centro di ogni giornata il poterla celebrare in modo degno. Conducete gli uomini sempre di nuovo a questo mistero. Aiutateli a partire da essi a portare la pace di Cristo nel mondo. Accompagnare il Signore nel suo sacrificio. Quando il sacerdote si dispone a consacrare il vino, la liturgia menziona il calice glorioso, Preclarus Calix, indipendentemente dalla ricchezza con la quale possa essere stato fabbricato o dalle decorazioni che eventualmente lo abbelliscono. La ragione è molto semplice. Questo calice, come quello che Cristo utilizzò nell'ultima cena, è destinato a contenere il sangue prezioso del Redentore, ora sotto l'umile apparenza del vino. Di conseguenza, il calice va confezionato con i migliori materiali che possano ottenersi, secondo le possibilità di ciascun luogo, in accordo con un'antichissima tradizione della Chiesa. È commovente constatare che quando c'è amore per l'Eucaristia, in tempi antichi come pure oggi in molti posti, la povertà materiale non costituisce un ostacolo per dedicare il meglio al culto divino. È un insegnamento che ci dà il Vangelo stesso. Quella donna che in casa di Simone il Lebbroso a Betania unge il capo del Maestro con un ricco profumo, ci ricorda il dovere d'essere splendidi nel culto di Dio. Tutto il lusso, la maestà e la bellezza mi sembrano ben poco. E contro coloro che biasimano la ricchezza dei vasi sacri, dei paramenti, delle pale d'altare, si innalza la lode di Gesù. Opus enim bonum operata est in me. Ha compiuto un'opera buona verso di me. Il testo liturgico fa riferimento a un salmo che descrive le premure di Dio per il suo popolo come un buon pastore. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Salmo 23, 1-5. Osservava in merito Benedetto XVI. Il canone romano interpreta questa parola del Salmo come una profezia che si adempie nell'Eucaristia. Sì, il Signore ci prepara la mensa in mezzo alle minacce di questo mondo e ci dona il calice glorioso, il calice della grande gioia, della vera festa alla quale tutti aneliamo, il calice colmo del vino del suo amore. Il calice significa le nozze, adesso è arrivata l'ora alla quale le nozze di Cana avevano alluso in modo misterioso. Sì, l'Eucaristia è più di un convito, è una festa di nozze, e queste nozze si fondono sull'autodonazione di Dio sino alla morte. Gesù attende che lo accompagniamo nel suo sacrificio, che perdiamo la paura di collaborare con Lui nell'applicazione dei frutti della redenzione. E ciò vuol dire rinnegare se stessi, sacrificarsi volontariamente in unione con Cristo per la salvezza delle anime. Tale sacrificio diventa gradevole quando davvero ci decidiamo ad abbracciare la croce di Gesù. Ascoltiamo la testimonianza di un sacerdote santo. Mi ricordo di una creatura che andava da una parte all'altra dei quartieri bassi di Madrid accompagnato soltanto dal suo dolore. Desiderava compiere la volontà di Dio, ma non aveva le risorse per compiere l'incarico ricevuto. Non gli rimaneva altra soluzione, altro mezzo che la croce, e beveva il calice della sofferenza sino alla feccia. Nel decidersi ad abbracciare il dolore, assaporò, come inebriato dal gusto dolce amaro della sofferenza, la gioia di quelle parole del salmista: «Et calix tuus inebrians quam preclarus est». Salmo 22, 5, Vulgata. «Il tuo calice che mi rende ebro, quanto mi fa felice». Era un dolore divino secondo la logica di Dio. Dobbiamo giungere fino a questo punto con la luce dell'umiltà. Nell'esporre le ricchezze del canone romano, Benedetto XVI invita a comprendere con maggior profondità il messaggio biblico che soggiace alle parole relative al calice. Gli studiosi ci dicono che nei tempi remoti di cui parlano le storie dei padri di Israele, ratificare un'alleanza significa entrare con altri in un legame basato sul sangue, ovvero accogliere l'altro nella propria federazione ed entrare così in una comunione di diritti l'uno con l'altro. In questo modo si crea una consanguineità reale, benché non materiale. I partner diventano in qualche modo fratelli dalla stessa carne e dalle stesse ossa. L'alleanza opera un insieme che significa pace. Possiamo adesso farci almeno un'idea di ciò che avvenne nell'ora dell'ultima cena e che da allora si rinnova ogni volta che celebriamo l'Eucaristia? Dio, il Dio vivente, stabilisce con noi una comunione di pace, anzi, Egli crea una consanguineità tra sé e noi. Mediante l'incarnazione di Gesù, mediante il suo sangue versato, siamo stati tirati dentro una consanguineità molto reale con Gesù e quindi con Dio stesso. Il sangue di Gesù è il suo amore, nel quale la vita divina e quella umana sono divenute una cosa sola. Preghiamo il Signore affinché comprendiamo sempre di più la grandezza di questo mistero, affinché esso sviluppi la sua forza trasformatrice nel nostro intimo, in modo che diventiamo veramente consanguinei di Gesù, pervasi dalla sua pace e così anche in comunione gli uni con gli altri.